Ecco, oggi partiamo appunto con una tematica che tanto più è specifica, tanto è importante proprio per chiave di volta di tutto questo processo. Il problema del duello, della proibizione del duello nel Concilio di Trento. È importantissima, non c'è di la Angelozzi, insomma, come il tema della violenza privata e della violenza pubblica, è logico. Come vediamo nei nostri giorni, di qualsiasi tematica che possa definirsi appunto politica, ecco, il controllo della violenza. E quindi noi oggi siamo proprio a esaminare un punto specifico, ma un punto fondamentale di questa relazione, di questo E che abbiamo messo tra il Trentino e il moderno. Come abbiamo detto, in tutti i sensi, non come conseguenze, non come cause, ma in tutte le interazioni possibili. La parola quindi è a Giancarlo Angelozzi dell'Università di Bologna, la cui presentazione è anch'essa facile, nel senso che con il professor Angelozzi siamo da tanti anni in collaborazione di lavoro e questi temi, oltre ai temi delle confraternite che ha studiato, il problema dell'ideologia dell'onore nei trattati italiani tra 5 e 600 ha da tempo puntato la sua attenzione su questo tema del duello. A lui la parola. Naturalmente Paolo, come al solito, mi ha un pochino spiazzato, nel senso che pensavo di dover fare una lunga introduzione per spiegare come mai il Concilio di Trento senta il bisogno, avverta l'opportunità di occuparsi di un tema che io pensavo ai nostri occhi può apparire del tutto eccentrico e irrilevante rispetto alle grandi tematiche del Concilio Tridentino. Io ricordo che la prima volta che così ebbi sotto mano gli atti del Concilio Tridentino, i decreti, e mi cadde l'occhio sul decreto di proibizione del duello, mi chiesi: ma cosa c'entra questo col Concilio di Trento? Mi sembrava veramente un corpo estraneo. Bene, Paolo ci ha spiegato invece che è un tema interessante, importante. Quindi salto l'introduzione e vengo soprattutto e passo immediatamente all'oggetto della comunicazione. E dico subito che la proibizione, il senso della proibizione del duello da parte del Concilio Tridentino si capisce, se ne capisce il senso, soltanto se si inserisce il discorso in una prospettiva di lungo periodo. Voglio dire che il Concilio Tridentino, prendendo posizione sul duello, pronunciandosi sul duello, prende posizione, assume una decisione rispetto a una questione che era dibattuta nella letteratura canonistica e casistica da almeno 3 secoli, a dir poco da 3 secoli. Bisogna anche aggiungere che la presa di posizione del Concilio Tridentino rispetto al duello, come vedremo, non chiuse affatto il dibattito. Il dibattito sulla liceità o meno del duello, in forme che si ripropongono in maniera sempre nuova, ma la cui sostanza è sempre sostanzialmente la stessa, la liceità o meno e i limiti della liceità della violenza privata, della faida, questo è un dibattito che si prolungherà per tutta l'età moderna, fino alla conclusione dell'antico regime ed oltre, perché l'ultima, che io sappia, presa di posizione ufficiale della Chiesa nei confronti del duello in area tedesca, è del 1825. Parlo di prese di posizioni ufficiali ad alto livello, poi ci sono prese di posizione più informali. Come mai il duello, questo tema ha costituito un tema così dibattuto per un arco di tempo così lungo? Ma io direi che il problema essenziale è che rispetto al sistema di valori e di norme di comportamento che la Chiesa definisce faticosamente nel corso del basso Medioevo e della prima età moderna, il duello rappresentava un problema intrigante e delicato per la sua connotazione, direi, duplice, una connotazione ambivalente ed ambigua. Da una parte il duello era una forma di ordalia, una forma di giudizio di Dio, e quindi in qualche modo aveva a che fare con la sfera del sacro. Dall'altra però, ed è la connotazione che, come dire, diventa più forte, quella prevalente nel corso del basso Medioevo e della prima età moderna, il duello era anche letto come una forma molto particolare di uso della violenza, come legittima difesa, come difesa dei beni materiali e morali dell'individuo. E questo è il caso della teorizzazione del duello per onore, del duello in punto d'onore, che è la forma caratteristica del duello della prima età moderna. Ora, nei confronti del duello inteso come giudizio di Dio, come ordalia, come aspetto particolare del rapporto fra uomo e Dio, la Chiesa assunse da molto presto, direi dagli inizi del XIII secolo, una posizione, direi, univoca, indiscussa, di condanna. Il duello veniva condannato come un tentativo blasfemo di forzare, di condizionare in qualche modo la volontà divina. Quindi sulla condanna del duello come giudizio di Dio, direi che dai primi decenni del XIII secolo non si discute più, sostanzialmente è un dato assodato. Rispetto al duello invece inteso come forma di inculpata tutela, di autodifesa, ecco, la Chiesa invece, come vedremo, continuò a lungo, direi per tutto l'antico regime, ad avere dei dubbi, nel senso che la pretesa di nobili ed uomini d'armi di ricorrere al duello per tutelare il proprio onore, un onore connesso ad un particolare status sociale e professionale privilegiato e generalmente riconosciuto dalla società, questa pretesa poteva apparire sostanzialmente compatibile con il concetto appunto di inculpata tutela, di autodifesa, di legittima difesa, che secondo una dottrina che era ormai consolidata da secoli, per la Chiesa in determinate circostanze poteva legittimare il ricorso alla violenza privata. In ultima analisi, il dibattito sul duello, questo lungo dibattito, questa lunga discussione, costituì, credo, solo un aspetto, ma un aspetto molto importante per le sue connotazioni sociali, di un problema più ampio, che era il problema dell'uso della violenza e dei confini fra violenza privata e violenza pubblica, fra inculpata tutela, legittima difesa, faida, vendetta e bellum justum, la guerra giusta. Non parlerò della preistoria del duello. Do per scontato che a un certo punto esiste un qualcosa che viene definito duello uguale giudizio di Dio, duello ordalia. Una vicenda lunga che non ricostruisco e per la quale rimando all'ottimo articolo di Falletti nel Dictionnaire du droit canonique. Parto invece dal momento in cui è chiara la natura duplice del duello, da una parte giudizio di Dio, dall'altra legittima difesa, ed è anche chiara la condanna della Chiesa, della gerarchia ecclesiastica, nei confronti del duello come ordalia. Che io sappia, il primo testo in cui è espressa in maniera chiara, lucida, la natura duplice del duello è la Summa del domenicano Raimondo Peñafort, scritta intorno al 1220. Raimondo tratta del duello in due luoghi distinti, il discorso è spezzato in due. Ne parla nel secondo libro, De omicidio, di seguito alla rubrica De torneamentis, i tornei, e ne parla all'interno del terzo libro, De scandalo, all'interno della rubrica De inquisitionibus et purgationibus. L'argomento, ci spiega Raimondo Peñafort, viene trattato nel secondo libro perché nei duelli, come nei tornei, si verificano spesso omicidi, cioè uccisioni prive di motivazione razionale, di motivazione accettabile. Di duello si parla nel terzo libro perché, secondo Raimondo e Pegnaforte, il duello si distingue da ogni altra forma di combattimento in quanto est singularis pugna inter aliquos ad probationem veritatis. Dicitur etiam vulgo in pluribus partibus judicium, eo quod ibi de judicium expectator. Ci si aspetta che nel corso del duello Dio esprima il suo giudizio, faccia vincere chi ha ragione, chi è dalla parte della ragione. Secondo Raimondo e Pegnafort, il duello va perciò considerato come una forma di quello che lui chiama purgatio vulgaris, al pari della prova del ferro incandescente, dell'acqua fredda e bollente, eccetera. E secondo Raimondo e Pegnafort, il duello è assolutamente illecito, perché contro il precetto non tentabis dominum deum tuum. Tali purgazioni svulgare, secondo Raimondo, sono ormai dalla Chiesa in totum reprobate et maledicte, quia invente diabolo fabricante. Cioè, per Raimondo non c'è più dubbio, il duello inteso come ordalia è unanimemente condannato dalla Chiesa. Naturalmente Raimondo è consapevole che c'è tutta una letteratura precedente che fa appello all'episodio biblico del duello fra Davide e Golia per legittimare in qualche modo il duello. Ma ci dice Raimondo, questo caso, questo episodio non fa testo, non fa legge, perché nel caso di Davide e Golia ci fu la espressione diretta della volontà divina. Davide combatté, si batté in duello per esplicito comando divino. Questo non fa legge però, è un caso particolare. Raimondo è naturalmente consapevole che, invece, come dice, consuetudo damen generalis contraista invaluit fere ubique terrarum, cioè ci si batte in duello giudiziario un po' dappertutto, la consuetudine è contro quanto io sto dicendo. E che, e qui passiamo al tema del duello come legittima difesa, e che è diffusa la convinzione che chi accetta di battersi, perché è costretto dal giudice, non commette peccato mortale in quanto combatte ad defensionem suam. E tuttavia, secondo Raimondo e Pegnafort, questo costituisce al massimo un attenuante. Ma in ogni caso commette peccato mortale non solo chi si batte in duello, ma anche il giudice che lo impone o lo autorizza, coloro che assistono o che ad hoc dant consilium auxilium vel favorem. In questa formula noi abbiamo l'origine, la formulazione originaria, di ogni posizione nei confronti del duello che potremmo definire rigorista. Il duello è illecito in ogni caso, in ogni circostanza. È peccato mortale. La Summa di un altro domenicano, Johannes von Freiburg, composta verso il 1290, costituisce invece il riferimento obbligato per ogni posizione più sfumata o possibilista. Per Giovanni da Friburgo, il duello, nel caso del duello, è eccessivo, nimis durum, dice, affermare che esso è illecito in ogni circostanza. Più probabile appare l'opinione che sia legittima accettare il duello imposto dal giudice quando non vi sia altro mezzo per difendere la propria vita ed i propri beni, purché il fine, nel momento in cui si accetta il duello, sia appunto questo, quello di salvare la propria vita e i propri beni, e non quello blasfemo di sollecitare il giudizio divino. Il discorso si è spostato insensibilmente dal piano del comportamento oggettivo al piano dell'intenzione. Questa proposizione di Giovanni di Friburgo, costantemente ripresa dalla letteratura casistica, costituisce il nucleo teologico-giuridico originario attorno al quale si costruirà l'assimilazione del duello per onore ad un caso di legittima difesa, argomentazione, come vedremo, ampiamente usata dalla metà del XVI secolo per aggirare o attenuare la condanna del duello, pronunciata da numerosi pontefici e solennemente ribadita. Il Concilio di Trento ribadisce soltanto la condanna, ribadita dal Concilio Tridentino. Dagli inizi del XIV secolo il duello costituisce una rubrica costante in quella letteratura che potremmo definire, Miriam Turrini potrebbe correggermi e precisare, quella letteratura che possiamo definire manualistica per confessori e penitenti. Io l'ho usata come un punto d'osservazione molto utile per capire l'evoluzione dell'atteggiamento nei confronti del duello. Fra le somme di Raymond de Peñafort, quella di Giovanni di Friburgo, e quelle 3-400esche, per quel che riguarda il duello vi è un'evidente continuità. Tuttavia, e questa è la differenza fondamentale, si può notare che mentre nelle prime due il duello era trattato come un caso particolare all'interno delle due diverse rubriche di omicidio e de purgationibus, nelle seconde, nelle somme 3-400esche, al duello è generalmente riservata una trattazione unitaria ed autonoma, è trattato sotto un'unica voce, o sotto la voce duellum, nelle somme organizzate alfabeticamente, come la Pisanella, il Supplementum, l'Angelica, la Rosella Casum, oppure in un capitolo a parte, all'interno della trattazione del quinto precetto del catalogo, nelle somme organizzate tematicamente, è il caso ad esempio dell'Aste Sana, della De Fecerunt di Antonino da Firenze, della Pacifica. L'unificazione del discorso sul duello non è più diviso in due rubriche, è unito in una trattazione autonoma, a sé stante. E la sua collocazione all'interno della trattazione del quinto comandamento, non uccides, suggerisce l'impressione che, nonostante esso, nel solco di una tradizione interpretativa ormai consolidata, continui ad essere definito come singulare certamen ad approbationem veritatis, tuttavia, gli autori delle somme 3-400esche in qualche modo percepiscono che nella realtà sociale il fenomeno sta perdendo il suo originario carattere di ordalia per assumere le caratteristiche di un oggetto autonomo e diverso. Oggetto però che per il momento, nella letteratura diciamo così ecclesiastica, non trova una nuova definizione più aderente alla realtà. A differenza di quanto avviene invece in opere di giuristi italiani, come Giovanni da Legnano, Baldo, Paride dal Pozzo, che registrano invece puntualmente come l'ordalia, il duello come giudizio di Dio, sia stato sostituito dal duello in punto d'onore, faccenda che riguarda esclusivamente milites et nobiles e che, nonostante innegabili analogie formali con il giudizio di Dio, risponde ad esigenze molto diverse di difesa di uno status socio-professionale privilegiato. In quanto al problema della liceità o meno del duello, nelle somme 3-400esche la posizione rigorista, diciamo così, di Raymond de Peñafort rimane largamente minoritaria. Prevale di gran lunga, direi, la posizione invece lassista di Giovanni di Friburgo. Il duello è lecito nel caso non sia possibile in altro modo salvare la propria vita e i propri beni. Agli inizi del Cinquecento, per la prima volta che io sappia, in maniera ufficiale, con un documento ufficiale, si occupa di duello un pontefice. E non a caso, credo, questo pontefice è Giulio II. Rispetto alle somme 400esche, la bolla Regis Pacifici di Giulio II, pubblicata nel 1509, rappresenta indubbiamente un salto qualitativo sul piano della capacità di cogliere la realtà del duello e rivela, credo, una sensibilità che deriva probabilmente dalla esperienza personale del Papa Guerriero. È vero che nella bolla di Giulio II il duello è ancora definito purgatio vulgaris, ordalia. Ma il contesto del discorso rimanda chiaramente non più al duello giudiziario, ma al duello in punto d'onore, visto come manifestazione particolare di una generale ed intollerabile propensione alla violenza privata ed alla faida. La bolla inizia così. Cupientes, presertim in terris romane ecclesie, interfideles, cedes, rixe et contentiones cessent, scandalorum tollantur fomenta, pax et concordia vigeant. Accepimus quod non nulli fidelium predictorum, aliquibus causis occorrentibus e plerunque minimis et inonestis, ac levibus verbis ad contumelias, contentiones et diffidationes devenientes, ut alter alterius sanguine satietur, ad temporales principes confugiunt, ut eis locum tutum sive campum ad duellum se pugnandum assignent. Chiaramente il contesto in cui ci stiamo muovendo è quello del duello cavalleresco, non è quello del giudizio di Dio. Inoltre, nella bolla Regis Pacifici viene meno qualsiasi giustificazione ed indulgenza nei confronti del duello. Esso è proibito in ogni caso e per chiunque, quacunque causa etiam a legibus permissa, si riferisce al duello giudiziario. Nulla eis consuetudine suffragante, quavis auctoritate et potestate ac nobilitate fulgentibus. Le sanzioni previste sono molto dure. Le pene riservate agli omicidi, la scomunica, la privazione della sepoltura ecclesiastica per chi si batte in duello o muore in duello. La scomunica, 4.000 ducati di ammenda e la privazione del feudo o della giurisdizione in caso di recidivia per i dominis temporales, per i signori che concedono campo franco. La riprova che per i sovrani pontefici il duello rappresentava ormai una intollerabile sfida all'autorità dello Stato ed un pericoloso fattore di turbamento della pace pubblica, nell'arco del cinquantennio che va dalla bolla di Giulio II al Concilio di Trento, ben altri 4 pontefici ritennero opportuno ribadire la condanna del duello ed inasprirne ed estenderne le pene. Nel 1519 Leone X, con la bolla Quandeo, rilevava che, nonostante le proibizioni, si continua a duellare tranquillamente nello Stato della Chiesa. Ribadiva perciò quanto sancito dalla bolla di Giulio II e dalle sanzioni da questa prevista aggiungeva la perpetua damnatio memoriae e la confisca dei beni per i duellanti, la privazione ipso facto dei feudi e delle giurisdizioni per i domini temporales che concedono campo, un'ammenda molto pesante per gli spettatori, per i semplici spettatori. 3 anni dopo, Clemente VII, con la bolla Consuevit, torna sul problema, limitandosi peraltro a riproporre integralmente il testo della Quandeo. Per circa un trentennio non registriamo altri interventi papali, fino al 1554, quando Giulio III, con la bolla Cum sicut accepimus, torna ad occuparsi di duello, rileva che le bolle precedenti non sono servite a nulla e soprattutto rileva, e questo gli sembra molto grave, che i giudici sono particolarmente indulgenti nei confronti di chi si è reso reo di questo delitto. Ribadisce perciò quanto affermato nelle bolle precedenti. La condanna del duello pronunciata da Giulio II, Leone X, Clemente VII e Giulio III riguardava soltanto i sudditi dello Stato della Chiesa. Nonostante l'applicazione di pene ecclesiastiche, quali la scomunica e la privazione della sepoltura in terra consacrata, essa poteva dunque essere recepita come proveniente dalla suprema autorità dello Stato pontificio, più che dalla suprema autorità della Chiesa. E questo è il motivo per cui ritengo, nelle summe della prima metà del XVI secolo, mi riferisco soprattutto alla Silvestrina, alla Tabbiena, alla Summula di Tommaso de Vio, all'Aurea Armilla di Bartolomeo Fumi, di queste bolle papali, quando si tratta di duello, non si fa cenno. In tale summe, tuttavia, si registra finalmente che il duello non può più essere considerato semplicemente una forma di giudizio di Dio. Nella Silvestrina, sulla scorta di Giovanni da Legnano, il giurista italiano della fine del 300, si rileva che il duello può avvenire per motivazioni diverse e che dunque è più opportuno definirlo genericamente singularis pugna ab utraque sponte suscepta, combattimento fra due, assunto, deciso spontaneamente dalle tue parti, senza più la specificazione ad probationem veritatis. E ancor più in sintonia con la realtà dei fatti appare la Summula del Cayetano, che spiega chiaramente che ormai al duello si ricorre ad evitationem ignominie, quasi vilis et degeneri animi reputetur nisi acceptet duellum. Cayetano registra che ormai non si combatte più, non ci si batte più in duello per sollecitare il giudizio divino, ci si batte per difendere il proprio onore di nobile, di uomo d'armi. Tuttavia lo stesso Caetano concludeva, ecco, lui era d'accordo con Bartolomeo Fumi, che questo comportamento da parte dei nobili, da parte degli uomini d'arme, è perfettamente legittimo, perché per loro il loro onore è la cosa più importante. E concludeva che è legittimo ricorrere al duello, ad esempio, per terminare, per porre termine senza eccessivo spargimento di sangue a una guerra ingiusta, una guerra giusta, scusate, oppure che è lecito ricorrere al duello con licenza del principe o del comandante per demoralizzare il nemico con l'esibizione del proprio valore. Evidentemente gli echi dell'epica di sfida di Barletta e di tanti consimili episodi che punteggiano le guerre d'Italia, nonché l'alone cavalleresco del sempre annunciato e mai consumato duello fra Francesco I e Carlo V, conferivano nei primi decenni del Cinquecento al singolare certamen un fascino che non contagiava soltanto i principi e uomini d'arme, ma anche austeri uomini di chiesa. Sicché non appare casuale che l'anno dopo la stipulazione della pace di Cateau-Cambrésis, che poneva fine a un cinquantennio di guerre pressoché ininterrotte, ed in attesa della ripresa dei lavori del Concilio, Pio IV sentisse il bisogno di ribadire ed ampliare, con inconsueta solennità e durezza, la condanna del duello. Nella bolla Ea qui, infatti, proibizione e sanzioni non riguardavano più soltanto lo Stato della Chiesa, ma si applicavano a tutta la cristianità, con la sola eccezione di imperatori e sovrani per quanto riguardava la scomunica dei signori che concedevano Campofranco. Inoltre, la scomunica veniva estesa a tutti coloro di qualsiasi dignità, nobiltà, ordine e grado partecipassero o in qualsiasi modo collaborassero a tale rito cruento. Cioè, chiunque in qualche modo partecipasse al cerimoniale del duello era condannato, ricadeva nella scomunica. Questi, diciamo, sono gli antecedenti. Per dire che nel momento in cui il Concilio di Trento affronta il problema, sono 3 secoli che canonisti e casisti si occupano di duello e ben 5 pontefici hanno sentito il bisogno di intervenire sul problema. Il tema del duello entra a far parte dell'agenda dei lavori conciliari solo nell'ultima fase e, per quel che ne so, a quanto ho potuto stabilire, per iniziativa dei prelati iberici. Sono gli spagnoli che pongono il problema. Di duello si parla infatti per la prima volta nella cosiddetta Reformatio ab Hispanis Concepta, inviata dal Simonetta a Roma il 6 aprile 1562. Di questa Reformatio fanno parte diverse parti, io mi riferisco soprattutto alla prima, denominata Pars Comune, che è quella che raccoglie le opinioni comuni dei prelati iberici. Al punto 60 delle Petitiones Comunes figura una proposta di proibizione del duello che si riferisce esplicitamente alla condanna già pronunciata da numerosi pontefici e implicitamente, direi, soprattutto alla bolla di Pio IV. Dice il testo del punto 60 delle Petitiones Comunes: aboleatur in toto orbe cristiano, quindi si riferisce a tutta la cristianità, monomachia, et renoventur pene a multis pontificibus statute, et domini temporales id permittentes ammittant dominium suorum locorum, quod ad occupantes deferatur, et spectatores et ministri maiori excommunicazioni subiaceant. È interessante notare come in documenti di tenore analogo alla Reformatio ad Hispanis Concepta, come il cosiddetto Libello Italiano di Riforma, o la Reformatio Gallorum, o le proposte di parte imperiale avanzate nel giugno del 62, non compaia alcun accenno al duello, che quindi, almeno inizialmente, sembra interessare soltanto i vescovi spagnoli. Viene spontaneo chiedersi perché. Perché il duello interessa ai vescovi spagnoli e non agli altri? C'è un articolo sul... è stato pubblicato un articolo sul duello nel Concilio di Trento, di cui è autore Prandi, Stefano Prandi, il quale esclude che il duello fosse pratica particolarmente diffusa in Spagna. Non so come faccia a escluderlo, nel senso che non ci sono rilevazioni sistematiche né per la Spagna né per altri paesi. Comunque esclude che il duello fosse particolarmente diffuso in Spagna ed ipotizza che la richiesta dei prelati spagnoli si inquadri nella, cito, particolare sensibilità spagnola per la problematica connessa ad una particolare enfatizzazione dell'onore cavalleresco, doppio profano dell'honra de Dios. Cerco di stringere le mie argomentazioni. Ho l'impressione che l'ipotesi di Prandi vada in qualche modo corretta. Cioè, intanto Prandi non tiene nel dovuto conto, credo, il fatto che i vescovi spagnoli in realtà non facevano altro che richiamarsi ai provvedimenti di ben 5 papi, tutti italiani, che avevano condannato il duello, almeno i primi 4, facendo riferimento ad un costume particolarmente diffuso nello Stato della Chiesa. E non tiene conto del fatto che la teorizzazione del duello in punto d'onore non è spagnola, ma è italiana, ad opera di giuristi come Giovanni da Legnano, Baldo, Paride dal Pozzo, Alciato, Sozzini, Fausto da Longiano. Le prime opere sul duello che compaiono in Spagna, in Francia, in Inghilterra e in seguito negli altri paesi europei sono traduzioni di opere italiane. Ho l'impressione che in realtà i vescovi spagnoli non facciano altro che registrare l'esistenza di un problema grosso, che è un problema dibattuto nella Spagna del tempo, sul quale non mi soffermo, ma è un problema che è stato studiato da Puddu, ad esempio, da Chauchelier. Ed è il problema di come preservare alcuni caratteri, presentati come caratteri nazionali della fanteria castigliana, la sobrietà, l'obbedienza, la disciplina, la fedeltà al sovrano, che erano minacciati, che si sentivano minacciati invece dal concetto d'onore cavalleresco italiano, e truppe italiane, ufficiali italiani facevano parte delle armate spagnole, di cui si temeva, come dire, il contagio in qualche modo. Ritengo quindi che uno degli aspetti dell'interesse dei vescovi spagnoli per il duello vada ricercato una direzione di, come dire, preservare certi caratteri dell'onore militare castigliano. Non è forse un caso che, come vedremo nel dibattito finale sul duello, nella discussione sul duello, l'oppositore più drastico nei confronti di una condanna radicale del duello è proprio un vescovo italiano, Egidio Foscarari, che raccoglie l'opinione concorde di molti altri vescovi italiani, che sono contrari a una proibizione radicale del duello. Questo testo, questo progetto di riforma formulato dai vescovi spagnoli fu inviato a Roma, fu discusso, fu rimandato indietro zeppo di osservazioni, di critiche, ne furono fatte diverse redazioni successive. Quello che è interessante però è che uno dei pochi punti che non fu mai toccato, che fu approvato dal Papa e dai suoi collaboratori sin dall'inizio, fu quello relativo al duello. Sin dalla redazione dell'aprile del 62 l'articolo sul duello viene rimandato indietro con un sobrio placet. Piace, va bene. Dopo diverse redazioni, finalmente, agli inizi del novembre 1562, fu inviato a Roma un nuovo progetto dagli spagnoli, ridotto a 19 articoli, più quello sulla residenza. All'ultimo punto figurava ancora la proposta di proibizione del duello, in una redazione però molto più esplicita e circostanziata di quella dell'aprile precedente. Quella dell'aprile si era limitata ad invocare la riconferma della condanna della monomachia pronunciata a multis pontificibus, richiamandone molto sinteticamente i punti essenziali. Tuttavia, rispetto alla bolla di Pio IV, la redazione di novembre rappresentava un passo indietro sul piano della rigorosità. Si ribadevano sì le pene comminate agli attori e ai padrini e a tale autorità che autorizzavano il duello, ma non si faceva alcun cenno a coloro che in vario modo e varia misura partecipassero o collaborassero al complesso rituale del duello, redigendo o pubblicando cartelli, eccetera, eccetera. Non conosciamo la reazione del pontefice e dei suoi collaboratori alla nuova redazione. Sta di fatto che il testo pubblicato dai legati intorno al 15 settembre 1563, e proposto alla discussione nell'ultimissima fase dei lavori del Concilio, il 15 novembre 1563, era sensibilmente più duro di quello inviato a Roma un anno prima e confermava ed anzi inaspriva il rigore della bolla di Pio IV. Riprendeva infatti le sanzioni previste nei confronti di coloro che a qualsiasi titolo partecipavano o collaboravano, ma soprattutto rispetto alla bolla Eaque, questa era la grossa novità, estendeva anche ad imperatori e sovrani la scomunica comminata ai signori temporali che concedevano Campofranco. Anche gli imperatori e anche i sovrani erano soggetti a scomunica. Come ho accennato, la discussione sui canoni della seconda sezione del progetto di riforma si svolse in un clima di smobilitazione e si esaurì nell'arco di soli 4 giorni. Fu una discussione molto rapida per la volontà del Morone di chiudere i lavori al più presto. Nonostante ciò, gli interventi sul duello furono numerosi e rivelarono profonde divisioni, a dimostrazione che il tema era tutt'altro che innocuo e toccava un punto particolarmente sensibile della cultura del codice di valori e di comportamento dei ceti superiori. Se una 70 di padri non espressero in proposito un'opinione chiara ed una 20 si limitarono ad approvare con un laconico placet, numerosi altri espressero invece opinioni precise o si associarono esplicitamente ad opinioni espresse da altri. Fra coloro che espressero un'opinione precisa, prevale di misura il partito rigorista, incline ad inasprire le sanzioni. Antonio di Capua, vescovo di Otranto, suggeriva «proibeantur libri de hoc impressi», si proibiscano i libri pubblicati in materia di duello. E sulla sua posizione si schierarono circa 40 di padri. Alcuni di questi andarono oltre. Per Muzio Calini, vescovo di Zara, era il caso di specificare che l'assoluzione dalla scomunica doveva essere riservata al Papa. Per il vescovo di Veglen, Alberto Duimio de Gliricis, era invece opportuno inserire la clausola aboleantur etiam grazie que fiunt in omicidio volontario, si abolisca qualsiasi tipo di grazia, di attenuazione della pena. Vinse di misura il partito rigorista. Una cospicua minoranza, tuttavia, si espresse per un'attenuazione della portata della proibizione e delle sanzioni. Il vescovo di Modena, Egidio Foscarari, obiettava, riferendosi evidentemente all'episodio del duello di Davide e Golia, «duelli in sacra scrittura non proibentur, propterea dicatur detestabilis abusus, non autem detestabilis duellum, neque libri damnentur». Si condanni l'abuso del duello, il ricorso al duello per motivi di lieve entità, non legittimi, ma non il duello in quanto tale. L'opinione del Foscarari raccolse l'adesione di circa 30 di padri. Non mancarono inoltre obiezioni alla estensione della scomunica agli spettatori, né rilievi sulla eccessiva severità delle pene previste per chi concedeva il campo libero. Di particolare interesse, direi poi, l'opinione del vescovo di Vic, Assis Clomoia de Confreras, che suggeriva di specificare che la condanna si applicava in duello solenni et pubblico, escludendo così il duello informale e privato che nella realtà costituiva ormai il duello per onore. Sostanzialmente il Moia de Contreras diceva sì, si proibisca il duello giudiziario, il duello solenne, ma non il duello privato. Sintetizzando le censure super 14 canonibus reformationis, quindi sintetizzando il dibattito, il segretario Massarelli annotava spectatores non feriantur anatemate, non si scomunichino i semplici spettatori, proibeantur libri ad hoc impressi, addatur quod non possit absolvi nisi assummo pontifice, dicatur detestabilis abusus duellorum. Queste secondo lui erano le osservazioni più importanti emerse dal dibattito rispetto al testo proposto. In realtà il testo approvato nella sessione ultima del 3 dicembre 1563 non recepì nessuna delle osservazioni emerse durante il dibattito e riprodusse senza alcuna modifica il testo presentato alla metà di novembre. Fu fu la fretta, questo desiderio di chiudere i lavori che impedì di rivederlo, può darsi. A me sembra più probabile che esso, quel testo, rappresentasse un accettabile compromesso fra opinioni, come abbiamo visto, fortemente divaricate. Sta di fatto comunque che il decreto conciliare non faceva altro che riproporre fedelmente la solenne condanna pronunciata da Pio IV 3 anni prima, sottolineandone ulteriormente il carattere di assolutezza ed universalità ed implicitamente richiamando quindi anche la suprema autorità del Concilio, estendendo la proibizione e le sanzioni ad imperatori e sovrani, cosa che nessun pontefice aveva fatto. C'è però da dire una cosa, sono costretto ad abbreviare molto per motivi di tempo, c'è da dire una cosa. Nulla nel testo del decreto conciliare ci fa capire se il Concilio sta parlando di un relitto culturale, il duello giudiziario, o se sta parlando di un fenomeno scottante, nuovo, grosso, il duello in punto d'onore. Si parla soltanto di pene, di sanzioni, ma non si definisce con esattezza qual è l'oggetto di queste sanzioni. A quale oggetto si rivolgono? D'altra parte, non si capisce bene di cosa si sta parlando, neppure dalla discussione assembleare. Le uniche due persone, gli unici due intervenuti, che in qualche modo danno segno di aver capito esattamente di che cosa si sta parlando, sono da una parte il Contreras, che maliziosamente dice: sì, si parli di proibizione, ma per il duello solenne e pubblico, quello che era condannato dalla Chiesa da 3 secoli, nessuno discuteva più di questo. Non si parli del privato. Il duello per onore era un duello ormai da alcuni decenni privato, non si svolgeva pubblicamente, non si svolgeva con la sanzione di un'autorità pubblica. Chi sicuramente sa di cosa si sta parlando è il Vescovo di Capua, che aggiunge: sì, ma si proibiscano anche i libri sul duello, e si riferisce chiaramente alla letteratura cavalleresca coeva, una ricchissima letteratura, soprattutto italiana, anzi quasi esclusivamente italiana questa data, che è una letteratura che non parla di duello giudiziario, parla del duello in punto d'onore. È per questo motivo che in realtà, contrariamente a quanto ci potremmo aspettare, vista la solennità della condanna, il Concilio di Trento non mette fine alla discussione sul duello. Mette fine alla discussione, semplicemente la lastra tombale nella discussione sul duello giudiziario, ma non mette fine al discorso sul duello per onore. Anzi, il discorso all'interno della Chiesa, il dibattito all'interno della Chiesa sul duello per onore inizia in questo momento, inizia dal Concilio di Trento. Quantomeno questa è l'impressione che si ricava, ad esempio, dalla lettura delle Inquiridion Confessariorum dell'agostiniano Martín de Azpilcueta, meglio conosciuto come il Navarro, che è sicuramente la Summa Confessorum più conosciuta, più diffusa nella seconda metà del Cinquecento. La Azpilcueta recupera, credo non casualmente, una impostazione arcaica del discorso e tratta del duello, a differenza di quanto avevano fatto le Summe trequattrocentesche, tratta del duello nell'ambito del primo precetto Decolendo Deo, per concludere rapidamente che il Concilio ha definitivamente condannato il duello ad probationem veritatis. Ma riprende poi il tema nell'ambito del quinto precetto Non occides, per argomentare che honor pluris valet quam alia bona fortune. E siccome è opinione pressoché comune, dice la Azpilcueta, di teologi e giuristi, che è legittimo uccidere l'aggressore per difendere la propria vita ed i propri beni, a maggior ragione sarà dunque lecito uccidere per difendere il proprio onore, quando le circostanze lo rendano necessario. Sicché, conclude il Navarro, il soldato sfidato a duello da un soldato nemico può raccogliere la sfida, perché milites debent honori suo consulere. E in genere, chiunque sia minacciato da un aggressore non sarà tenuto a fuggire, anche potendolo, qualora dalla fuga ignuriam maximam honoris pateretur. Nell'economia del mio discorso, ripeto, sono costretto a tagliare molto per motivi di tempo, l'Enchiridion del Navarro rappresenta un testo centrale. In primo luogo perché, nonostante non lo affermi esplicitamente, è evidente che la Spilqueta ritiene che il Concilio, e prima del Concilio i papi che hanno affrontato il problema, abbiano inteso parlare del duello pubblico e solenne, inteso come giudizio di Dio, e non già del duello privato ed informale per motivi d'onore che costituiva ormai la realtà del fenomeno e dal quale si riferiva la scienza cavalleresca contemporanea. Ma soprattutto perché egli, includendo l'onore nella sfera dei beni, che è lecito difendere anche con l'uso della forza, in certa misura assimila il duello cavalleresco ad un caso particolare di legittima difesa, facendolo ricadere nella sfera dei diritti naturali che non possono essere negati dalla legge positiva. Tale argomentazione, unitamente alla distinzione fra rissa, scatenata dal calore della passione, e duello, originato dalla fredda determinazione, sarà utilizzata, fino alla fine dell'antico regime, da teologi e moralisti chiaramente simpatetici nei confronti della mentalità nobiliare, per eludere o attenuare la condanna pronunciata dal Concilio e da numerosi pontefici. Di duello si occuperanno, ripeto ancora, per due secoli, sommisti, moralisti, canonisti. Sul problema del duello dovranno tornare cinque pontefici. È un discorso, un dibattito che continua a lungo. Da un certo momento in poi, dopo la condanna di Innocenzo VIII, che specifica finalmente, senza ombra di dubbio, che non si sta parlando di giudizio di Dio, si sta parlando di duello cavalleresco, usa l'espressione more cavalleresco, finalmente, da quel momento tutto il gioco sarà condotto attraverso la riproposizione in formule sempre più capziose, sempre più sottili, della distinzione fra rissa e duello. Quello che è condannato è il duello, quello che è condannato con la scomunica, con le pene più gravi, è il duello, che è frutto di una deliberata volontà, non la rissa, che invece è il frutto del calore del momento, dell'ira, della reazione a caldo. E ci sarà una, come dire, un rimpallo continuo fra il costume, il duello diventa sempre più agile, meno formalizzato, passa sempre meno tempo fra il momento della sfida e il momento dell'esecuzione. Il duello, nella pratica, cerca sempre di più di mimetizzarsi, di camuffarsi da rissa. E dall'altra parte tutta una serie di canonisti e di moralisti che, come dire, tengono bordone a questo gioco, spiegando come è estremamente difficile configurare nella realtà un duello, perché le circostanze previste nelle bolle pontificali che definiscono il duello, come dire, si realizzano molto difficilmente, nella pratica non si realizzano più, quelle sono risse, non sono duelli. È chiaro che molto spesso è un atteggiamento che maschera da parte del canonista o del casista in questione un atteggiamento di aperta adesione ai valori nobiliari. Chiudo. E a questo punto non posso più eludere il problema centrale. Ma insomma, rispetto al problema della modernizzazione, nel caso specifico del duello, che operazione ha compiuto il Concilio di Trento? Ma se ci poniamo in un'ottica di lungo periodo, dal mio punto di vista, punto d'osservazione del duello, molto specifico, non posso che concludere che il Concilio di Trento, rispetto al duello, prende una posizione molto coraggiosa, una posizione controcorrente, nel senso che va contro opinioni estremamente diffuse presso le classi dirigenti, comportamenti e convinzioni diffuse, È un'operazione controcorrente anche nei confronti di gran parte della gerarchia ecclesiastica. La maggior parte dei casisti e dei canonisti dell'età moderna, in sostanza e in ultima analisi, sono a favore del duello. Parlano di rissa, naturalmente, ma la sostanza è quella. Quindi è una decisione coraggiosa, una decisione controcorrente, che mi pare si iscriva e rappresenti una tappa importante, una tappa fondamentale, in quel processo di delegittimazione della violenza privata e di monopolizzazione della violenza da parte del pubblico, dello Stato, che indubbiamente costituisce uno degli aspetti non secondari della modernizzazione, del moderno. Questo ci poniamo in un'ottica di lungo periodo, no? Ragioniamo col senno del poi. Se andiamo a vedere la decisione conciliare, la presa di posizione conciliare, nel suo contesto specifico, e allora il discorso è un po' meno chiaro. Ripeto, dal decreto conciliare e dalla discussione non si capisce neppure di quale duello stiamo parlando. Si parla genericamente di duello. Non si prende posizione, non si specifica qual è l'oggetto. Allora, si sta prendendo una posizione di avanguardia, innovativa, nei confronti di un problema nuovo, scottante, del momento? O si sta semplicemente sanzionando la morte di un relitto culturale, il duello giudiziario che, ripeto, sin dai tempi di Raimondo e Peñafort non c'era più discussione, no? Era chiaramente condannato come atto blasfemo. Mi pare che nel caso del duello questa ambiguità, ambivalenza, difficoltà di dare una definizione del concilio risalti in maniera chiarissima. Non si capisce, nel senso che non si capisce qual è l'oggetto preciso del discorso. Saranno necessari altri 60 anni di discussioni in sede canonistica, in sede casistica, e sarà poi necessario l'intervento deciso finalmente di un pontefice, Innocenzo VIII, per capire finalmente che si sta parlando del duello cavalleresco, del duello per onore. Non si parla più di duello giudiziario. Questo avverrà 60 anni dopo, però. Vi ringrazio per la pazienza e ho chiuso.